Va ora in onda Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo Glorioso. Un cordiale buongiorno, ben ritrovati tutti quanti in ascolto. In questo momento sono le 12.15, anzi 14 in questo momento al Watch. Un buongiorno a tutti, all'insegna di un tempo molto variabile, freddo, caldo, quindi attenzione alla salute. Potete inviarci un messaggio direttamente dal nostro sito www.crmpiredia.it oppure inviateci un sms al numero 335-5637-25 o telefonate allo 0921-92-32-92. Se volete anche interagire con noi tramite Facebook, beh, scriveteci pure lì, e se non siamo già tra i vostri contatti, cercateci CRM Happy Radio. Detto questo, oggi due argomenti totalmente diversi, ugualmente interessanti. Il primo parleremo, nel primo argomento tratteremo il Parco delle Madonie. Ci sono tantissimi parchi in Italia, c'è un annoso problema che dovrebbe essere risolto e si spera presto, perché i contadini, chi vive in campagna nell'Interland delle Madonie, sinceramente non ne può più. Stiamo parlando dei suidi, questi cinghiali ibridi, un incrocio tra maiali e cinghiali. Esce fuori poi questo animale che insomma è anche di notevole stazza, quando raggiunge i 130-140 kg, e a vederselo di fronte insomma è quanto dire. I danni che fanno questi animali sono ingenti, soprattutto nelle colture, perché scavano per la ricerca di radici ed altro, e quindi combinano dei disastri enormi. Qualche giorno fa ho avuto il piacere di incontrare l'attuale presidente del parco, devo dire persona molto disponibile da questo punto di vista, il dottor Angelo Pizzuto, che tra poco, non appena la regia si metterà in contatto, sentiremo dalla sua viva voce quali sono e se ci sono in atto delle iniziative per quantomeno alleggerire questo peso che grava sulle spalle dei contadini, ma anche di chi ha delle villette in campagna, vedi Castelbuono, San Mauro, Pollina, si trova tutto il terreno sotto sopra a soqquadro, perché questi animali giustamente devono anche nutrirsi, devono anche bere, e quindi in assenza di nutrimenti naturali cercano quello che trovano a portata di mano sotto gli alberi, quindi scavano e a volte mettono a soqquadro delle intere campagne, delle colture che insomma la gente ha lavorato con alacrità e si trova poi con un pugno di mosche in mano. Altri argomenti: parleremo di prevenzione soprattutto per quanto attiene il carcinoma al seno. Già il Brando D'Angelo lo avremo anche al telefono, perché è impegnato naturalmente in ambulatorio. Cercheremo di capire quali sono le forme preventive, se c'è stato un congresso, se è insediato un nuovo pool di esperti nel settore, di ricercatori, e quindi sono anche dei medici che poi danno delle risposte in tempo per tempo a chi ha purtroppo, ahimè, di queste patologie. Bisogna fare prevenzione a qualsiasi costo, capiremo nella fattispecie, trattando di seno della donna, qual è la prevenzione che si possa fare, ed eventualmente la diagnosi precoce, in quanto ogni quanto una donna deve sottoporsi e dopo quanti anni deve sottoporsi a uno screening da parte degli esperti, dei medici, per avere la possibilità di non essere colpita da questo tipo di male che è molto pericoloso. Altri argomenti in cantiere, qua e là, leggendo tra una notizia e l'altra, facendo zapping col telecomando, è del tutto evidente che c'è poco da stare allegri. Ne parleremo tra non molto, e nel frattempo io direi di dare la linea alla regia. Al ritorno dai consigli di acquisti, vediamo un attimo di sentire il dottor Angelo Pizzuto, che è l'attuale presidente del Parco delle Madonie. Linea alla regia. E allora rieccoci in onda su CRM Penedio. Per chi si fosse messo in contatto in questo momento, sta andando in onda Carta e Penna, programma di condotto in studio a Filippo Glorioso. La console c'è sempre lui, il grande rockstar, che poi ringrazieremo alla fine della trasmissione. Intanto io do il benvenuto al dottor Angelo Pizzuto, attuale presidente del Parco delle Madonie. Dottor Pizzuto, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. No, grazie a lei per aver risposto al nostro invito, insomma è sempre una cosa reciproca. Noi che la invitiamo e lei che cortesemente tralascia un attimo i suoi impegni istituzionali e ci dedica parte del suo tempo. Dottor Pizzuto, andiamo subito al nocciolo della questione e poi faremo qualche domanda in generale. Noi ci siamo incontrati qualche giorno fa e io le feci cenno su un argomento che sta a cuore a tutti i madoniti, soprattutto nell'Interland tra San Mauro, Pollina, Castelbuono, Geraci, insomma quello è ma si estende anche oltre questo confine. Lei è attuale presidente del parco, per cui la domanda che molti vorrebbero farle, ma non solo a lei ma anche alle istituzioni regionali, provinciali e locali, è questa: come ci sarà qualche soluzione prima o poi su questo benedetto problema dei suidi, presidente? Ma guardi, io intanto tengo a precisare in premessa che l'ente parco, così come i residenti in area parco, sono un po' tutti vittima di questa situazione, incluso noi, perché questa fu un'operazione errata condotta dall'azienda delle foreste demaniali una quindicina di anni fa per introdurre la biodiversità, sì, che poi è andata fuori controllo. Ora, detto questo, secondo noi che studiamo bene la vicenda già da alcuni anni, ma in particolare negli ultimi due anni, l'unica soluzione è una modifica legislativa che possa introdurre all'interno dell'area parco l'abbattimento selettivo supervisionato o dai vigili, dalla forestale, dei suidi cosiddetti, cioè sì, questi cinghialitti, perché che non è caccia. Noi cerchiamo di puntare molto su questo: l'abbattimento selettivo non è caccia, la caccia è a tutte le specie. Esatto. L'abbattimento selettivo sarebbe confinato ai suidi, perché riteniamo che l'abbattimento, ormai visto l'enorme numero, noi abbiamo degli studi che li portano a circa 10.000, è l'unica soluzione. Il Parco delle Madonie ha avuto approvato da tutti gli organismi di legge regionali e nazionali il piano di cattura con gabbie e chiusini, ma purtroppo con la cattura ne prendiamo 10-15 alla settimana, è una cosa notoria. Quindi l'unica soluzione è l'abbattimento selettivo. In questo senso abbiamo avuto anche di recente, durante una grande giornata di studi che si è tenuta a Castelbuono, rassicurazioni da parte dell'assessore al territorio e ambiente della regione, la dottoressa Lobello, che è molto sensibile a questo problema, che ci verrà incontro e in una delle prossime finestre legislative introdurremo 2-3 emendamenti che l'ente parco ha già preparato, proprio per introdurre l'abbattimento selettivo e quindi organizzare le squadre per cominciare ad abbattere nelle zone in cui sono più frequenti. Ecco, la invitavo a parlare più da vicino col ricevitore, perché sennò la sentiamo distante, presidente. Allora, sì, si potrebbe creare invece un indotto, io credo, no? Cioè, nel senso di fare degli abbattimenti selettivi, ci mancherebbe, non in maniera indiscriminata, tanto da abbattere dei capi che non vadano poi ad aumentare, e quindi saremmo punte a capo. Per cui selettivi, d'accordo, ma si potrebbero creare anche, come dire, un indotto nel macellare questa carne di suidi ed essere messa in commercio anche da parte della regione, della provincia, con degli enti preposti? Sì, questo per noi, diciamo, questa è la nostra idea che già abbiamo sottoposto alla regione, e cioè un bando, così come si fa in altri parchi nazionali, tra l'altro non è che non ce lo siamo inventati, che possa consentire a coloro i quali cacciano i suidi o anche alle aziende che lavorano in questo settore, sì, proprio la macellazione e quindi la trasformazione del prodotto in salumi e quant'altro. Questo è, diciamo, un punto che è all'interno dell'emendamento che l'ente parco ha presentato alla regione, e che quindi destina una piccola parte in beneficenza, così come la normativa nazionale prevede, sì, e poi un'altra parte per le aziende di trasformazione. Quindi stiamo in stand by in attesa che qualcosa da parte del legislatore si muova per cambiare questa regola, di modo tale che si possa intervenire immediatamente, perché in effetti i disastri sono enormi, presidente, io glielo garantisco, li ho visti in prima persona, ma sicuramente li ha visti lei prima di me. Detto questo, chiudiamo questa pagina, chiaramente ci sentiremo nell'arco dell'anno, se lei è sempre d'accordo a essere mio ospite, presidente, e aggiorneremo i nostri radioascoltatori sullo stato di avanzamento, diciamo, di questo tipo di lavoro. Detto assolutamente questo, la ringrazio. Detto questo, stiamo lasciando una primavera un po' particolare quest'anno, fresco, caldo, vento forte, insomma, eccetera, ma ci avviciniamo, ahimè, all'estate, ahimè, nel senso che per gli incendi boschivi. Si è fatto un piano presso la prefettura per quanto attiene il parco nello specifico per evitare danni, ingenti, come è stato per l'anno scorso, con questi incendi dolosi che ogni anno si presentano puntualmente. C'è un piano di prevenzione efficace quest'anno, presidente? Avete previsto qualcosa? Presumo di sì. Sì, noi già abbiamo fatto diverse riunioni con la Protezione Civile Regionale che coordina il piano di incendi. Presidente, non la sento più. Piano... mi sente adesso? Sì, deve avvicinare la bocca al citofono, altrimenti non... Al ricevitore, sì. Al ricevitore. Ecco, sì, eccomi, dicevo, c'è già un piano che l'Ente Parco ha concordato con la Protezione Civile Regionale che si occupa di coordinare il piano antincendio per le varie zone della Sicilia. Sì. E questo piano già è stato trasmesso sia all'Ente Parco che dall'Ente Parco a cascata a tutti i comuni che ne fanno parte per appunto prevenire laddove possibile gli incendi, perché la materia antincendio è molto complessa una volta che l'incendio succede. Dobbiamo puntare molto sulla prevenzione. A tal proposito l'Ente Parco si è già fatto promotore di un tavolo tecnico con tutti i sindaci e con le associazioni di volontariato per coordinare proprio questi sforzi preventivi, quindi raccogliere le sterpaglie, fare un po' di manutenzione. La forestale si sta interessando per fare la pulizia dei viali parafuoco, sì, in modo che meno chance ci sono per l'incendio, sia di carattere naturale fortuito ma anche di carattere doloso, più facile poi sarà, diciamo così, l'intervento dello spegnimento. Quindi stiamo puntando quest'anno molto sulla prevenzione e già le associazioni sono al lavoro e speriamo che nel giro di un mese, 40 giorni, il lavoro preparatorio possa essere fatto. Presidente Pizzuto, io la ringrazio, è stato molto esaustivo, molto chiaro, noi ci sentiremo nell'arco dei mesi, ogni tanto se lei me lo consentirà, io la chiamerò sempre ad essere ospite nella trasmissione, mi farebbe piacere se lei potesse essere fisicamente presente magari nei mesi a venire, prima d'agosto, perché poi andiamo tutti in ferie, di modo tale da fare un punto generale della situazione, cioè se è stata fatta questa modifica alla legge sull'abbattimento dei suidi e naturalmente se incendi speriamo che non ce ne siano, ma che la prevenzione abbia funzionato o meno, quindi ne parleremo casomai personalmente qui in studio. Intanto io la ringrazio, la lascio alla grazie sua... a voi. No, grazie a lei per il lavoro che fa, naturalmente, per le incombenze che ha e cosa le volevo augurare? Un buon weekend all'insegna del relax, del riposo e naturalmente all'insegna ci auguriamo del sole. Grazie ancora Presidente Pizzuto, a risentirla presto. A presto. Allora, prima di salutarci, di passare la linea alla regia, io devo ringraziare uno sponsor come faccio sempre. Oggi ho la giornata un po' così, non sto molto bene perché il tempo mi costringe a degli sbalzi di temperatura corporea e questo, insomma, la cervicale si fa sentire, ecco perché sembra un po' sconnesso stamattina, è una giornata un po' così. Dicevo, bisogna ringraziare gli sponsor, che lo faccio sempre, e tra questi il panificio Biscottificio Fratelli Tumminello. Perché? Perché sono biscotti fatti bene come li faceva la nonna, con lievito naturale, senza aggiunta di additivi, il latte fresco viene preso lì nel posto, e così anche le uova, quindi non c'è nulla di industriale, quindi per la colazione, per il break, ma anche la sera davanti alla televisione tra un film e l'altro, sgranocchiare un buon biscotto non guasta mai, come il rustico, al burro, integrale, al cioccolato, e sono tutti, ve lo ricordo, rigorosamente fatti con latte e uova fresche locali, senza aggiunta di nessun additivo. Dove lo trovate? A Castelbuono, naturalmente, in via dunque... via Cefalù 18, vi do il telefono per la vostra prenotazione, 0921 67 11 32, ripeto 0921 67 11 32 a Castelbuono. Biscottificio Panificio Tumminello, vi raccomando, prendete i biscotti, li potete mangiare tranquillamente perché è come se l'avesse fatto vostra nonna o la vostra mamma a casa, perché non ha aggiunti assolutamente di additivi, il latte è freschissimo del posto, prelevato lì a Castelbuono, e anche le uova sono locali, mi raccomando, e buono snack. Bisogna anche ringraziare Croce Verde, perché? Perché volontario sociosanitario, perché fa la postazione medica per manifestazioni sportive, mi spiego meglio, nel caso in cui nel vostro comune o associazione privata vogliono fare delle manifestazioni sportive tipo Cogard, tipo cronoscalate eccetera, necessita per legge la presenza di un'ambulanza, e allora la Croce Verde è a vostra disposizione con una postazione medica, quindi l'ambulanza medicale. La sede a San Mauro Castelverde, filiale di Pollina, Cefalù e Castelbuono. Poi per le dimissioni ospedaliere, nel caso in cui il vostro congiunto deve raggiungere a casa perché è dimesso all'ospedale, non ci sono problemi, chiamate Croce Verde e anche in questo vi viene incontro. Poi per il disbrigo pratica e documenti sanitari, anche in questo caso Croce Verde è a vostra totale disposizione. Il telefono 360 866 082 oppure 333 40 27 332. Detto questo, io direi di fermarci un attimo, do la linea alla regia. Al rientro parleremo con il dottor Ildebrando D'Angelo per quanto attiene appunto la prevenzione e la cura del carcinoma al seno. Il mio passato non si vende, finché ci sono lui c'è. Puoi rottamare il tuo presente, che fra un paio di minuti non vale niente. Io sono in pista dal 70, fra Dylan, Lennon e Sting, fra una partenza e una fermata, dal vinile all'MP3, ne abbiamo viste di rivoluzioni io e te. Come rispondere adesso al silenzio che c'è? Salvatevi, datevi, unitevi, siete voi più che mai quell'ultima risorsa. Scomodi, difficili, vogliono disperdervi l'anima, negategli come abbiamo. Tornare in piazza, di fargli un culo così, per guadagnarsi una speranza, c'è bisogno di un amico, di un'alleanza. Giurami che non è finita, che resti in gara anche tu, che affronterai questa salita, respira per carità. Di perdere il gusto della novità, vederli sperimentare, che felicità. Giovani, salvatevi, fatevi conoscere, anche noi tempo fa ci regalammo un sogno. Niente più vincoli o simboli, così che sappiano di chi siete figli mai, testardi proprio come noi. Vieni a cercarmi anche tu se trovi il tempo, se non avrai cancellato il profumo di me. Il viaggio più coraggioso è sempre l'incontro. Io sarò l'esperienza e tu l'incanto. Ritorniamo in diretta, vi ricordo Carta e Penna ogni giovedì dalle 12 circa alle 13, potete interagire con noi inviandoci un messaggio direttamente al nostro sito www.crmperadio.it oppure inviare un sms al 335 56 37 25 o telefonare se volete allo 0921 92 32 92 anche su Facebook. Adesso abbiamo il secondo ospite in diretta ed è insomma un luminare, un personaggio che io stimo moltissimo, è una persona straordinaria e un professionista di tutto riguardo, il dottor Ildebrando D'Angelo, che ringrazio per aver accettato l'invito. Pronto Ildebrando? Ciao Filippo, buongiorno a te e agli ascoltatori. Buongiorno a te e naturalmente a tutto il tuo staff, che altro dirti, cioè non è che sei in diretta come me, no? Quindi ai tuoi ascoltatori, non dico i tuoi pazienti. Allora, bando alle battute di scherzo che ogni tanto ci permettiamo, ma entriamo in un argomento abbastanza serio, parliamo di carcinoma mammario. Ci sono delle novità rispetto agli anni passati, l'altro giorno fuori onda, quando ci siamo incontrati, mi parlavi di un congresso, di un insediamento, di un nuovo pool che si interessa di questo patologia, tu ti sei sempre interessato di questo tipo di patologia, allora comincio a chiederti che tipo di sviluppi ci sono in atto sia sotto il profilo diagnostico che farmacologico. Ma sicuramente è la presa di coscienza sempre più forte di una realtà ospedaliera e di un gruppo di specialisti che in maniera conforme e consona collabora tra loro nel tentativo di affrontare la patologia mammaria insieme alla paziente che ne affetta, perché non dimentichiamoci che non trattiamo il carcinoma della mammella, ma trattiamo un paziente o una paziente che affetta da una patologia neoplastica. Quindi l'interesse della persona viene affrontata appunto da questo pool di specialisti, tenendo presente anche i risvolti psicologici e quindi comunque una persona che ha dubbi, certezze, che lascia affetti e comunque situazioni a volte familiari che sono difficilmente percepibili dall'esterno, quindi comporta degli sconvolgimenti dal punto di vista anche dell'affrontare della quotidianità normale. Scusa un attimo, ti stop un secondo per chiederti una cosa, che io quando sento quella persona lì, sai, ha un carcinoma o ha un tumore eccetera eccetera, la cosa che io mi pongo è mi proietto verso la persona che ha questa patologia. Cosa scatta nel cervello di una donna, nella fattispecie, o di un essere umano, sapendo che ha un male del genere, secondo delle tue esperienze? Certo, sappiamo benissimo che questa problematica può rivolgere innanzitutto un aspetto che è legato alla integrità dello schema corporeo, perché chiaramente una patologia mammaria comporta una menomazione fisica su un organo che è assolutamente simbolo della femminilità e quindi questo, indipendentemente dall'età, comporta sicuramente un disagio forte psicologico per quanto riguarda appunto una parte che viene a mancare, certo. Questa è una, e questo ripeto indipendentemente dall'età, perché molto più frequentemente mi capita di vedere persone che non sono più giovanissime che comunque tengono in maniera morbosa, quasi direi, all'integrità del proprio corpo. È molto più facile sentir dire ad una donna giovane preferisco togliere tutta la mammella a patto di ottenere una garanzia di guarigione piuttosto che una persona non più giovanissima. Questo poi ovviamente fa il paio con l'altra grossa situazione, che è quella legata alla paura della morte, perché chiaramente la parola stessa, il tumore della mammella, molto spesso, ma sempre meno frequentemente direi per fortuna, e questo è un altro dato molto positivo, si associa alla ineluttabilità della morte, che prima o poi ci coglierà tutti, però diciamo che nel passato questa parola è sempre stata associata ad una condanna più o meno imminente. Oggi fortunatamente questo esito è sempre più procrastinato nel tempo e sempre più avviene per finalità, si è allontanato fortunatamente, sì, naturali piuttosto che per si è allontanato. Senti, per quanto attiene, noi abbiamo sempre parlato poco fa, avevo avuto ospite qui in trasmissione per telefono il presidente del Parco delle Madonie a proposito di incendi, che è tutt'altra cosa, parlavamo di prevenire che è meglio che curare, insomma, voglio dire, la prevenzione quando non si tratta, invece io so perché essendo stato a fianco vostro qualche volta ho ascoltato dalle vostre parole di ricercatori, di addetti ai lavori, che ci può essere anche la familiarità di un carcinoma al seno, cioè dire la figlia può ereditare dalla madre, dalla nonna il fatto di essere colpita da questa patologia. Scevro dal fatto della patologia, voglio dire, ereditaria, quale forma di prevenzione una donna, la donna deve effettuare su se stessa per capire e per evitare che possa essere colpita da questo tipo di male? Beh, io colgo quello che ti ho detto anche per battere il ferro mentre è caldo. Sappiamo benissimo che in questi giorni molta gente e l'opinione pubblica è stata molto sensibilizzata dall'intervento che ha fatto l'attrice americana, sì. Angelina Jolie, sì, che ha fatto un intervento radicale nel tentativo di appunto sfuggire a un rischio ipotetico. È chiaro che è un comportamento estremo, non da tutti condivisibile, perché sappiamo benissimo che quando parliamo di un rischio parliamo di una patologia che potrebbe non arrivare mai, primo. Secondo, un'altra considerazione importante da farsi è che le pazienti affette da BRCA1, BRCA2, quindi un'anomalia cromosomica a livello ereditario, sì, che può comportare una facilità di trasmissione del gene malato, non necessariamente comporta la trasmissione della malattia. E soprattutto queste pazienti che proprio hanno questa spada di Damocle sul collo sono soggette a controlli sempre più tempestivi, periodici, cadenzati, con regolarità, che permettono una diagnosi sempre più tempestiva e precoce, e queste forme, quindi ereditarie, proprio per il BRCA1 e il BRCA2, sono forme che hanno un'alta trasmissibilità dal punto di vista dell'assetto ormonale, per cui sono forme a miglior prognosi. Quindi paradossalmente è pur vero che le pacienti con ereditarietà e familiarità hanno una più alta incidenza di contrarre la malattia tumorale, ma sono persone che possono giovarsi di una diagnosi più precoce e più tempestiva e in stadi più favorevoli. Quindi capiamo bene che probabilmente è un'esagerazione, bisogna capire poi, è chiaro, come viviamo questa situazione, perché dal punto di vista psicologico ci può essere una grande carica che ci permette di non vivere bene. D'altro canto l'alterazione genetica comporta anche una maggiore suscettibilità ad una trasmissione del cancro all'ovaio. Quindi ecco, la stessa Jolie l'ha detto, 85% aveva la possibilità di un rischio aumentato al seno, ma il 55% di rischio all'ovaio. E questo teoricamente dovrebbe comportare anche l'altra soluzione estrema della castrazione ovarica. E ci rendiamo conto che quindi non sono scelte da fare a cuor leggero. Per fare queste scelte occorre che ci sia sicuramente una valutazione psicologica, un supporto emotivo, familiare, alla base fondamentale. Qual è la prevenzione? La prevenzione si fa normalmente e classicamente sempre con la mammografia, che sempre più nel tempo incomincia a essere anticipata. Oggi diventa quasi categorico iniziare con la mammografia già a 40 anni, con una frequenza che è raccomandata annuale, con una cadenza annuale sino a menopausa. Sì. È chiaro che questa cadenza ha dei vari distinguo legati alla densità radiologica, legata alle maggiori o minori presenze di comorbidità, alle situazioni di densità radiologica, alla presenza di patologie o meno, però in linea di massima l'indicazione generica è la mammografia accoppiata all'esame ecografico dai 40 ai 50 anni con cadenza annuale, e in genere dopo 50 anni, quando si presume che la paziente sia in menopausa, la mammografia è sufficientemente raccomandata ogni 2 anni. Fermati un attimo, a proposito della menopausa, la donna con l'abbattimento di questa ultima barriera protettiva, perché di quello trattiamo, non è ancora maggiormente esposta a dei rischi? Entrando in menopausa. Il tumore della mammella è un tumore che ha due picchi di incidenza normalmente, uno che è tra i 40 e i 50 anni e un altro che normalmente parte dai 55 anni e va incrementandosi nel tempo, nel senso che come tutte le patologie tumorali sono patologie degenerative, sì, che meglio colpiscono, con più facilità colpiscono organismi che incominciano a perdere le proprie difese, quindi l'età purtroppo comporta anche un esaurimento delle nostre capacità difensive, per cui con l'incedere dell'età diventa più frequente l'incidenza del tumore della mammella, che, ripeto, per altri versi ha un alto picco importante intorno ai 40-45 anni. Quindi bisogna stare sempre col mitra spianato, cioè sempre con la massima attenzione. Bisogna imparare, soprattutto in questo mondo in cui la prevenzione è importante, a non sottovalutare i campanelli d'allarme e a fare quelle procedure diagnostiche che ci servono. È chiaro che tutto questo purtroppo si cozza con i bilanci familiari, perché oggi purtroppo la prevenzione sempre meno è gravata da una compartecipazione alla spesa sanitaria. I programmi di prevenzione sono biennali, partono dai 45 anni, non dai 40 anni, quindi tutto questo molto spesso comporta un dispendio economico da parte della paziente, ma la salute è nostra e dobbiamo essere i primi a perseguirla. Facciamo un sunto, così ti faccio prendere un po' di fiato e poi andiamo a chiudere, perché so che tu sei impegnato sul lavoro e quindi sì, io ti sarò... facciamo anche noi prevenzione e comunicazione, cioè certo, non stiamo perdendo tempo, ma stiamo indottrinando. Anzi, è encomiabile. Stiamo indottrinando le nostre radioascoltatrici nella fattispecie per capire come muoversi. Una cosa importante, lo dicesti tu in una riunione che facemmo, in un simposio che facemmo a Castelbuono, di cui tu hai memoria, sì, presumo. Sì, ecco, si parlava molto che la donna sotto la doccia a 40 anni, ma anche la mattina alzandosi, va in bagno, eccetera, eccetera, sarebbe importante che palpasse, tastasse lei stessa con le proprie mani se trova riscontro nel seno qualche nodulino. Potrebbe essere anche una forma di prevenzione questa? Allora, questa è una forma di prevenzione in senso più lato, ovviamente, perché oggi le moderne tecniche, metodologie diagnostiche ci permettono di fare diagnosi di lesioni non palpabili. Quindi è chiaro che quando in altri andiamo a cercare le forme iniziali, molto spesso parliamo di lesioni di 2, 3, 4 mm, forme che clinicamente non possono essere palpabili né dalla donna né dallo specialista. Ho capito. Però è molto importante che l'autopalpazione venga fatta dalla donna, perché può cogliere determinate zone di maggiore sensibilità algica o di retrazione o di anomalie che possono poi meglio indirizzare lo specialista nell'approfondimento del caso, e soprattutto tengono sempre la donna di fronte a una problematica che non va sottovalutata. Dottor Ildebrando, lei come sempre, io ti do del lei in maniera informale, ma ci diamo del tu fuori onda. Ci mancherebbe. Ovviamente. Io so quanto tu tenga al tuo lavoro, con quanta deontologia professionale ti dedica alla tua professione, con quanto amore lo fai, e soprattutto dal punto di vista psicologico ne ho avuto testimonianza, non sulla mia persona, che io il seno ce l'ho, ma non è così evidente come quello delle donne, per nostra fortuna, ma noi uomini abbiamo altri tipi di patologie, tu lo sai bene. La prostata, insomma, è un elemento scatenante e preoccupante per chi ha superato il 50esimo anno. Non per toglierti tranquillità, ma purtroppo dico anche l'uomo ha un'incidenza del tumore mammario che è un rapporto di 1-2 a 100 rispetto a... È molto bassa come percentuale. Cevri sì, ma non immuni del tutto. Senti, da questo ultimo congresso che avete svolto, di cosa avete trattato, cosa avete discusso e soprattutto le conclusioni di questo congresso? Questo congresso è stato molto importante perché ci ha permesso di presentarci in maniera pubblica sul territorio e soprattutto di riallacciare rapporti collaborativi con altre realtà che fanno senologia. È stato un congresso che è stato organizzato in un bellissimo albergo di Cefalù, giorno 11 maggio, sì. In una cornice veramente lodevole. Dal punto di vista organizzativo ringrazio ancora la Bibotour che ci ha permesso di portare avanti questa manifestazione, e abbiamo collegialmente, quindi tutti gli specialisti che di questa patologia ci occupiamo all'interno dell'ospedale dove esiste questa breast unit, questo termine inglese che significa breast significa mammella, quindi unità di senologia multidisciplinare, multispecialistica, che ho l'onore di rappresentare dal 2011, ma presso la quale collaborano specialisti dell'oncologia, della radioterapia, dell'anatomia patologica, della chirurgia, della radiologia stessi, psicologi, tecnici di anatomia patologica, tecnici di radiologia medica, del laboratorio analisi, una marea, fisici, ricercatori, una marea di gente che giustamente collabora, e sotto questo punto di vista notevoli sono gli studi che stiamo portando avanti anche con l'ATO, con il laboratorio di altre tecnologie, che ci dà una grossa mano sia dal punto di vista tecnologico, ricordiamoci che la IORT, che noi abbiamo preso questa struttura, è qua presente grazie alla disponibilità e alla volontà dell'ATO, quindi radioterapia intraoperatoria, ma abbiamo anche degli studi sperimentali molto importanti che servono a verificare quali metodiche possono meglio indicare le categorie di rischio e quindi per eventuali terapie mirate su pazienti, mi riferisco in particolare alla risonanza con spettroscopia, alle immagini di diffusione, ai laboratori di proteomica e genomica. Dico, il bagaglio culturale e scientifico è enorme, che viaggia in uno con la clinica. e soprattutto al centro c'è sempre la paziente. Questo è il dato importante. Fuori di dubbio, ti faccio le ultime due domande molto stringatamente e ti chiedo, anche se può sembrare banale, siccome sento dire spesso che il sorriso aiuta a prevenire certi tipi di malattie, la depressione li può aumentare, il grigiore interiore può danneggiare anche l'apparato, cioè può far abbassare le difese immunitarie, e questo discorso vale anche per chi è soggetto ad essere colpito dalla patologia del carcinoma al seno? Assolutamente sì, è chiaro che uno stato positivo del nostro organismo anche dal punto di vista psicologico ci permette in uno di potenziare meglio le nostre difese, secondariamente di sopportare anche il meglio gli effetti collaterali legati alle terapie sia farmacologiche ma anche ai risvolti psicologici che la stessa ci dà. È chiaro che una persona che non ha voglia di vivere difficilmente accetta e sopporta le complicanze che possono essere legate alle terapie. Dottor Ildebrando D'Angelo, io a nome di tutte le donne che ci stanno ascoltando in questo momento intanto la ringrazio, ringrazio lei e il suo staff per quanto vi prodighiate per porre in essere il benessere di, mi sembra una cacofonia, però per porre in essere la ripetizione, per porre in essere il benessere delle nostre donne che sono le nostre mamme, le nostre fidanzate, le nostre sorelle, le nostre figlie, per cui grazie per tutto quello che fate. Lo so che ringrazio sempre te, ringrazio Angelo Arduino, ringrazio CRM per la sensibilità sempre manifestata e buon lavoro. Ma questo è il nostro mestiere, bisogna informare e voi lo fate con dovizia anche di particolari. Grazie per averci dedicato parte del tuo preziosissimo tempo, ti lascio il tuo lavoro e tanti in bocca al lupo per te e il tuo gruppo. Grazie a Ildebrando D'Angelo ancora, e come avete sentito insomma ce n'è per tutte le salse, però bisogna stare anche tranquilli, essere positivi, rivolgersi ove fosse il caso a questi specialisti. C'è un pool anche di psicologi perché sono fondamentali per la salvaguardia del cervello, perché uno che sa di essere condannato, capite bene che avviene uno scombussolamento genetico straordinario e i neuroni, i protoni scappano tutti via, si esce pazzi, perché uno che si trova con una sentenza passata in giudicato, per fortuna oggi questa sentenza è molto lontana, se si fa prevenzione come diceva Ildebrando D'Angelo i rischi chiaramente diminuiscono e di molto, e non è sempre vero che chi ha avuto in famiglia, soprattutto nei propri avi, questo tipo di patologia, non per forza maggiore di cose deve colpire anche l'ultima generazione. Detto questo, io desidero ringraziare lo studio della dottoressa Domizia Di Fazio, specialista in ortodonzia ma è anche associata con l'odontoiatria, lo trovate in via Sant'Anna 18 bis a Castelbuono. Vi ricordo, dottoressa Domizia Di Fazio, per i problemi dei vostri denti ma anche per l'espianto, l'impianto e quant'altro, insomma uno studio forbitissimo, ortodonzia da un lato, odontoiatria dall'altro lato. La dottoressa Domizia Di Fazio la trovate nel suo studio in via Sant'Anna 18 bis. E poi ancora, in vista dell'estate ma anche per l'inverno, i piedi sono importantissimi. Se non stanno bene in salute i piedi, non sta bene tutto il corpo. Cosa bisogna fare per star bene con i piedi? Bisogna andare da Impronte Calzature, lo trovate anche su Facebook, con delle firme straordinarie come uomo per esempio Carrera, Renato Balestra e Pier Carden, per la donna Francesco Milano, Carla Sansonetta, oppure per bambino la Walt Disney e tanto altre ancora. Poi non dimenticatevi altre cose importanti, tutta la linea mare è fondamentale, ancora le pantofole del De Fonseca che sono la firma, la garanzia, la linea comoda, la riposella, tutto parte da 19 euro fino ad arrivare a 59 euro, scarpe uomo, donna, bambino, per il tempo libero, per le passeggiate, per il mare, trovate dei prezzi straordinari a fronte di firme meravigliose, anni ed anni di esperienza di Impronte Calzature, e sono le impronte che resteranno indelebili sui vostri piedi. Vi ricordo a Campo Felice di Roccella in via Cesare Civello 53 e a Castelbuono in corso Umberto 1 70 72. Siamo in vicinanza dell'estate, bisogna pulire i propri terreni, bisogna, chi ha la passione del pollice verde, vuole fare un po' di orto, lo può fare, perché se andate a trovare Salamone Genovese vi mette nelle condizioni di non mancarvi nulla, quello che vi necessita per la vostra campagna, dai motosega ai motozappa per l'irrigazione, tutta l'impianto a goccia, tubi, irrigazione, insomma, e alle gocciolanti con la raccorderia varia, e poi ci sono i quad per il vostro tempo libero, oppure i cross e mini cross, Tutto per la campagna, la Runcola e all'ascia, quello che vi serve, insomma, lo trovate in via Roma 75, telefono 091 89 91 350, Salamone Genovese SNC, info @salgen.it a Cerda, oppure www.salgen.it, lì trovate veramente tutto quello che riguarda per la campagna, tutto quello che necessite per il vostro orto. Vi ricordo dai tubi, ma anche le motoseghe, i decespugliatori, marche straordinarie, l'Alpina per esempio, motosega Alpina, insomma, è una delle più belle che si possa avere come marche, oppure le motozappe della Ford. E poi c'è un aspetto importante su Salamone Genovese: se comprate le stufe adesso, le stufe a pellet o a legna, c'è la detrazione fiscale del 50%. Le firme di queste stufe sono straordinarie, c'è la Nordica ex Traflame, e quindi voglio dire, entro il 30 giugno però, quindi andate da Salamone Genovese, comprate le stufe a pellet o a legna e avete l'abbattimento della detrazione fiscale del 50%, ma entro il 30 giugno. Poi, se invece volete rilassarvi un po' il cervello, un weekend sabato e domenica lo potete fare alla Collina del Nibbio, con un percorso che è un agroturismo a 4 stelle, percorso all'interno di questo agroturismo, a parte la piscina, a parte l'equitazione che potete fare, lunghe passeggiate in mezzo ai boschi e a due passi tra l'altro dal mare, lo trovate dentro il Parco delle Madonie, lo trovate a Reitano in provincia di Messina, alle porte del Parco delle Madonie, in mezzo nel verde tra il torrente Santo Stefano e la Valle della Lesa. Quindi pensate che sogno. E poi c'è il percorso artistico con delle sculture, e vi consentirà, per chi ama l'arte, insomma, di passare anche il tempo. Poi, per quanto attiene i piatti, è inutile che ve lo dico, insomma, piatti succulenti locali come il cinghiale dei Nebrodi, il cinghiale nero dei Nebrodi, che è una carne straordinaria, le orecchiette, i dolci che sono particolari, tutto fatto in casa. Quindi vi ricordo la Collina del Nibbio, sopra, appena salite per andare a Mistretta, svingolate a Santo Stefano di Camastra, tornate indietro come se dovesse andare a Mistretta, a pochi chilometri trovate questa insegna, che appunto c'è scritto la Collina del Nibbio. Vi auguro un buon weekend, una buona domenica, finalmente all'insegna del sole, ma speriamo che arrivi presto, perché ancora la primavera non è esplosa quasi per niente. Io mi fermo qui, ringrazio come sempre voi che ci avete ascoltato, i nostri ospiti, il presidente del Parco delle Madonie e il dottore Lebrando D'Angelo, per averci ragguagliato su quelle che sono le tematiche vigenti in questo momento: incendio e suidi per quanto attiene il parco, invece carcinoma al seno, lo stato di avanguardia nel quale la comunità scientifica si è portata avanti con questo pool comprensivo di tutti, dal radiologo al chirurgo allo psicologo che assiste le donne che hanno questo tipo di patologie. Quindi state tranquilli, possiamo stare più sereni rispetto a qualche anno fa, qualcosa in più si è fatto, la scienza va avanti. Da parte mia l'appuntamento è sempre ogni giovedì dalle 12 alle 13 circa, e poi la replica domenica alle 9:30, oppure andate su podcast repliche sempre su www.crmpiredio.it e lì potete ascoltare tutte le puntate precedenti. E grazie sempre alla parte tecnica a Santi Genovese, un appuntamento quindi al prossimo giovedì, buon weekend, buona domenica a tutti da parte di Filippo Glorioso, ciao. Abbiamo trasmesso Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo Glorioso.